tutti quei delinquenti, che per carità a volte mi fanno ridere, a tutti che ci scornano, cioè dico in tutte le maniere, ci sono gli elementi che sono, e poi sono tutti dei vecchi volponi della radio, non è che siamo ragazzini, sono tutti dei vecchi volponi che si riuniscono tutti lì, prima pare che ci vogliano tutti bene, e poi alla fine tutti ci mettono a scornarsi uno con l'altro, ci dicono in tutti i colori, tu rudone, tua moglie qui, tua moglie là, brutto orecchie di mercante, brutto orecchie di porco, e tutti i colori antocinesi. E che proprio fai? La frequenza dei pirati dei 45-20, così la chiamano. C'è la pagina per il vestito, non le voleva ancora bene a Napoli. Lui, tanto, ma questa cavolata che dicono e che si scordano uno con l'altro, e che senso ha? È bello quando si fa un discorso serio, tranquillo, sereno, come si è sempre fatto. Guarda, non ce l'è per nessuno. Sono d'accordo con te. È bello farsi due chiacchiere tranquilli, sereni, entrare per rilassarsi, non fa, intendi, c'era me dei balavatturi, infatti così, oramai, è così. No, ma lì è proprio una cosa assurda, mamma mia, io ci andavo così ad ascoltare a volte quando giri, sai, perché è vicino ai 40 metri, quindi giri, scemila eccetera, e ti metti ad ascoltare questi cosci, mamma di tutti i colori, ce ne dici, ma di tutti i colori, di tutti i colori, e quindi alla fine ti vai in ora a mare, giri e vai ad ascoltare magari un qualsiasi più interessante, più che non ti faccia, oh, vabbè, oddio, tanto di te non sardi, mette, vado in esolare lì e boh, non ce ne discorsi belli lì. Sono tutti sempre a bordi e quindi cosa fai? Già va bene, già va bene. E Luca, ancora il computer? Sì. Io sono un po' le fa ascoltando. Mi ha preceduto e non sento un cacchio. Forse me lo vado con quest'altra, non va bene. Però vorrei stai ascoltando tu, dimmi. Tu la cosa ma non lo intendevo, ma quanto va a c'è cosa. Non è che la radio mia o l'antenna mia sia superiore alla tua, sono uguali le radio. Quindi se io sento di sentire anche tu, te lo stai ascoltando. Ma ora che sono da qua, dimmi la frequenza giusta, come dimmi, e ora faccio un giro, dimmi. Se non diamo in mia, ma non mi dite 13.300. Non dico a me la frequenza, 6.000. Ciao Mondi, sempre in 13 e 13, va bene, buona cena, buon tutto. 6585, 6.585.00. Non c'è più nessuno. sempre a bordo, sempre, per carità, meglio niente. Vai Antonio, Antonio vai. Positivo, positivo, ma quando è così non ne vale neanche la pena, cioè io parlo per me, ripeto, per andare a ascoltare le cavolate che si dicono loro, meglio fare un questo tranquillo e sereno, anzi, è più importante le queste che si fa molte volte di sentire queste cavolate qua, tutto qua, riprendi qua. Antonio Italiano Loco, dimmi chi c'era, che sono entrato per una battuta poco fa. C'era anche Mondino, stavo aspettando i saluti di Mondino perché sta chiudendo per carica. Senti, ti rilascerò con Mike a te, tanto lì per i saluti a Mondino e poi fai girare a Roberto. Vai. Facciamo Mondino se mi ascolti, dai. Buon tutto, salutoni, alle prossime. Vai Roberto. Ciao Mondino, non ho sentito io che stava chiudendo, ecco, facciamolo sentire. Un attimo, ti stavi chiudendo, confermi. Forse ha già chiuso, vabbè, comunque lo saluto anche io. Ok, va bene. Nel programma c'era anche Luca, ho sentito prima. C'è ancora Luca, ci sei? Tossico dipendente comunale, Carpettina. Ciao roba, non ci sono, ciao saluto. Sono qua. Ciao il Moghe. No, sto. Ho fatto una email su. Qui su Google. Mi dal. Quanta soldi è questa? Non lo so. Sì, Coccuomane. Come si dice Coccuomane? Così. Coccuomane. Scusa, ho aperto la finestra, stavo muovendo dal caldo, lo sapete? Ma avevo un'aria vera pure. Mamma di turchi. Speriamo che domani non ne vada l'aria, cazzo, perché c'è un appuntamento fuori, sassa di puttana. Non piove, dai, dovrebbe avere un po' di acqua stasera, ma non piove. Ha girato il vento, perché ero stasera giù con i tornei, con i bambini, ci stava benissimo. Poi di colpo si è pisurato il vento, ha girato il vento forte, si è abbassata la temperatura a meno di 7-8 gradi, minimo, per non dire 10. Adesso c'è queste nubi nere, però forse da una scusata in acqua, domani è previsto buono comunque il tempo. Le ragozze, Pippina, non nei vostri insanno, non nei vostri insati, va a tempo Maruga, Dio, Canarino. Io sono libero lunedì, che lavoro domenica, domenica pomeriggio, quindi domani pomeriggio sono libero lunedì. Speriamo che faccia bella giornata, così voglio ultimare questo lavoro delle antenne. E così a giovedì dove posso rilassare lo tutto, perché c'è ancora la canaletta aperta esterna, voglio chiuderla, se no se continua a piovere non la posso chiudere, altrimenti mi si riempie l'acqua, e quindi la devo lasciare aperta, fare scendere l'altro cavo e poi chiudere tutto e via così. Però si continua il tempo, siamo fregati, pazienza, va bene. Non ce ne fretta, se no il lunedì, se no martedì, se no giovedì, quello che è. Quando viene, viene. Sì, Roma, ma qua il vento non... c'è la finestra aperta. Il vento proprio qua, perlomeno, gli alberi del giardino non si muovono pochissimo, quindi non credo ci sia vento forte forte. Però c'è questa affa, perlomeno. Io ho quasi 23 gradi qua in stanza. Sono le radio tutte accese che stanno mandando calore a tutto andare, o proprio il caldo che c'è fuori, non lo so. No, ma adesso ho visto che si è abbassata, almeno dove ero fuori giù alle punti e c'era il vento, si sentiva, adesso magari qua saremo tutti, perché vabbè, non è il caso tuo perché non è il palazzo intorno, però qua anche io stesso non ne ho notato, però giù c'era un po' di venticello, si sentiva. Ok, facciamo riprendere a Falchetto, che in parcheggio avanti anche. Ehi, positivo, positivo, ehi, bene, zitti, confermo quello che ha detto Claudio, c'è questa staffa qua, mancia, però penso che stia caricando, sta caricando, più o meno qualcosa di acqua la fa, se poco andare lontano, io sono qua, c'ho la finestra a due passi, tutto libero, ma vedo molto, ma molto il tempo grigio, veramente. Ok, detto questo, ripasso il mic a Claudio, avanti Claudio. Sì, io ho lasciato un attimo di bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno. Sì, c'è una giornata un po' strana, stamattina sono uscito, era un po' così, sembrava che ci fosse quella temperatura un po' mediocre, insomma, poter portare il giubbottino, e c'è stasera proprio, sono in... in pigiama, non c'ho ancora quello pesante, c'ho caldo. Non lo so. Vabbè. Ma vuole già pone una maglietta da buio. Non fa niente. Ma sicuramente sono anche le radio che stanno mandando calore, io le tengo tutte accese per ascoltare, per fare. Alla fin fine mi hanno chiuso tutto, ne tengo una giù la testa e via. Aspetta che spengo anche, che c'avevo anche gli amplificatori accesi in stand-by per tenere sempre le valvole in funzione, perché quelli se li tieni spenti tanti mesi poi alla fine non li recupereggi più nulla. Sempre il solito discorso avevamo, tu capito? Alla fin fine, o li tratti, li gosi, o non li adoperi sempre sulle cifre, li mettere sopra. Vabbè, pazienza. E domanda per Ruby, non mi ricordo, ti devo dire. Non mi ricordo. Vabbè, non ti sei ricordato a dirle a tuo cugino di quella cosa che mi hai detto. Ricordati lunedì, che c'è l'aria che è disperata, che deve aggiustare la macchina. No, già messo di guardato, quello è fuori Sassari, ho guardato io quel pezzettino centrale, tutto il pezzo del paluzzi centrale, quello ce l'ho, però guardando vedi il resto della tua, perché tu c'hai una griglia, di che non è la macchina tua, perché quello che c'ho io è tutto un blocco, non è la griglia, il muso, la griglia è in tre pezzi il paluzzi tuo, cioè il laterale, il centrale e poi la griglia centrale, però questo è senza griglia quello che c'ho io, quelli invece, non so se ti ricordi, quelle color panna, ne uno di quelli, comunque vai, ti avvicini, però il tuo non lo so se l'ha rotto il centrale, ci ha messo il laterale mi pare, no? Sì, ma il centrale è la griglietta, quella si può anche comprare nuova, vabbè, non è un problema quello. Quella è la griglietta, la mascherina così chiamata, quella separata. E il centrale è quello che non è una griglia, sì, quello che c'è sotto la mascherina, quello lì. Uno è quello lì e l'altro è il parafanghetto sinistro. Capite? Quella maschina si compra nuova, non è un problema. Tanto la maschina l'avranno già nera, però senza vernici, quindi si dà una passata di nero, quel nero suo, e si piazza nel frattempo, intanto di verniciare anche gli altri pezzi, perciò non c'è un problema. Ma è destro, Claudio, non è sinistro il tuo rotto? Il destro, sì. Il destro, mi pare. Lato passeggero, sì. Sì, lato passeggero, si guarda da seduti l'ordine del destro e del sinistro, perché molti lo guardano davanti, da seduto dentro la macchina e lato destro, lato passeggero. Tu quale c'è, scommetto quello sinistro, che sfiga. Scusa, no, Claudio, l'ho detto a me, scusa, che mi ha detto. Ho detto che sfiga, magari tu c'hai quello sinistro. Sì, c'è il sinistro, che tra l'altro l'ho chiesto a mio fratello, non sono neanche riuscito a trovarlo, perché stamattina lo stavo proprio cercando, se c'è, vede se si sta sbagliando, lei ha detto no, è il sinistro, però non sono riuscito a trovarlo, spero non te la genere l'hanno fatto, perché può sempre servire, però mio cugino, lui ne ce l'ha la smart, per quanto ne so io, qualcosa di davanti ce l'ha dove non ce l'ha buttato, se no bisogna fare un po' di telefonate e vedere un po', però questo se ne parla lunedì, là. Mi sono tu prova a chiedere. Per risparmiare giusto qualche lira, ma non è che sia un problema quello. Se ce l'ha tuo cugino, le prendiamo a tuo cugino. E se no, lunedì guardi cosa serve, si telefona alla Mercedes e si ordina. Perché tanto di concorrenza non le trovi, o robe. Si ordina mascherina, il parafanghetto e il supporto di sotto. Inizia a prepararti tutto, verniciare, quando sei pronto, ti lascio la macchina. Non mi piace così, purtroppo si è distratta l'aria, ha toccato a uno, sai, e l'ha spaccato. Ok, va bene, facciamo girare Natalino, si è rientrato, il cane l'hai legato, l'hai dato a mangiare, stai attento, quello ti musica la testa. Ah, io musica già edo. Lo sai, quello è bravo, ma se le dai fastidio te ne mangia una gamba quello e poi diventi come il sindaco di Troia dopo. E ma chi tu metti giù il bacco? No, mi è caduto dal bacco perché, io lo sai, mentre stava facendo il comizio hanno tirato il telone e c'è uscito lui il tavolone e il telone tu, e ne è caduto e mi ha lasciato la gamba. Addirittura. Vito mio, ha ciampato il ballone, ha esecuto a pittura, ha avuto quattro punti in capo, buona mamma. Ah, è troppo. Ciao Natali. E arrivi. Ha lucidato. Il primo gomito era lavato, mi rapido un microfono. Ci ha avvicinato il microfono a parlare con i megafoni grandi grandi. E si è goduto la capsula. Mi sembra molto. Quando mi vedeva faceva... Pesate, per carità di Dio. Adesso mi fatti inizia la campagna elettorale, bisogna che vada a trovarlo, a rassicurarlo, poverino, perché è mezzo guasto. O ogni comizio che fa, o si faccia rubare questi gaggi a cabatella, o gaggi da giù, o si mangia il microfono. Ci sono uccinate quell'uomo. Ma te immagini, quando hanno fatto il coso della, come si chiama, della la manifestazione lì alla, come si chiama quello di droghe? Ma come si infetta tanto lì? Qualcosa che c'è dei vecchi a droghe, come si chiama? Quello degli anziani. Ehi, non me la metto assai. Bravo, San Giovanni Battista. È andato a rassicurare anche le sinagoghe blog, tanto è andato. Ragazzi, tutto bene, non vi preoccupate che in giro di 30 giorni vi faccio fare tutti i soldi. L'anno è cotto una giuscia, la navigata, lo cancello e lo vado in andare, avanti e indietro, cancello, avanti e indietro, in automatico, finché sembra il gallo. Non c'è niente, lui può varino. Ma se un attimo è bianco, chi è che ha parlato? Avanti. È quello che ha detto San Giovanni Battista, chi è avanti? Non so, vabbè, se non si presenta, io già manco da tanto, non ho riconosciuto la modulazione. Yeah, su, è guai, yeah. Ed è andato a Argoso di Anziano, San Giovanni Battista, cazzo, in tutti gli altri usa. Io non volevo accolino una tariva, un chiede la stampella di Basca, prima era lì, c'è mi dato la stampella. Allora poi aggammato una riata al cancello e l'hanno messo in automatico, avanti e indietro. Maria Rugoso mi sta alle olio. Fermate un attimo giù al cielo, fermate giù al cielo, sì. Mani. Cirate, io sono un soggetto, dai, vai, così. Però qua c'è una sfiga allucinante. Una volta mi aveva contato che è andato al Lido di Plattamona. Chi? Allora il Lido di Plattamona che è anche un bellone bisogna un centinaio. Centinaio, ombrelloni ce l'ha, non so, 80, 100. Ha pigliato l'ombrellone con la sdraia, come ti sei posato, si è fasciato l'ombrellone, l'hai caduto in campo e gli si è serrata la sdraia in mezzo all'anca, grassatura. Marino, allucinate. Stai andando a fare la comizia, ne farà due arrumacco, ne farà due. Pisumeo, grazie. È andata la mamma a soccorrere, ragazzi, è caduta, boom, 4 punti buraella in conca. Super maledica, siamo una famiglia sfigata, sole. Allucinate. Dove succede a quell'uomo, guarda, una cosa, io lo conosco. Beh, grosso, una persona anziana, maduro, cazzo, ma le strampate che prende quell'uomo allucinante. Anche da poco l'ho visto, ci aveva un cerotto in testa. E siccome ci ho due o tre colleghi di Ploa, ci sta sempre calendo, ma ragione a Gagimi. Adesso il comune, non so se Ploa lo conosce il comune, hai visto dove? Sopra, dove c'è la chiesa, non c'è il ciottolato, c'è l'ufficio tecnico. Lo sai quante volte è strampa dalle scale? Chi? Cazzo della decisa, adesso la medicina che ho qua, se la guardi. Non mi si è puntato proprio l'anca, si è puntato e bisogna ingessare, ragazzi, quando è caduto da un banco. E il gruppo buco mi dice, che si dà male all'ingessatura. Ah, certo. È di una sfiga allucinante quell'uomo, una sfiga allucinante. Ma lì c'è l'ombrellone, me la stavo guarda facendo addosso. Lui non basta che lì c'è... Con l'aperto ombrellone che aggiunge l'ombrellone si è serrato e che aggiunge il tabù, ma ti sei pugiato la sdraia, invece non aveva i fermi della spalliera, lì si è chiusa la crastata. La crastata di tiri, la si intendia la vaginare, e te vai online, dove vai, vai roba. Allora mi devo dimostrare un'assicurazione per evitare questi. No, non lo conosco, almeno non credo di conoscerlo questo personaggio. Magari Marziano è. anni più di non lo conosci da quei ploaghe. Ma di soprannome si da quei ploaghe o avevo si da quei ploaghe? Se si da quei ploaghe non è da soprannome, si da quei ploaghe, tanto che balle. Stato anche assessore qua a Sassari. Pirino si chiama. Piriu. Non lo so, non lo conosco. Ma è allucinante. Cisce. Ah, lo sai quanto me ne hanno raccontato. Ma no, veramente da fare ridere, proprio da fare tristezzare. Sì, ma guarda, adesso mi ricordo se era successo un incidente a Saccarcia, e lui stava scendendo a Sassari. Allora, con tutti i macchini che sono in colonna, no? I carabinieri, quella baretta, lampeggiante, tutto. Non ha visto la colonna ferma e ne ha facciato già 7 di macchine. E tua mamma ti ha visto che era un carabinieri. Ridendo e gridandomi, come ti guardi il buccio di macchina, poi mi si è addotto perché dovete facciamo un sacco di colleghi di poi, e quindi siamo andati a vedere questa cosa, anche perché poi doveva fare la festa in piazza, ma ti sto parlando di 10 anni fa. Una cosa allucinante, le lacrime ne varavano in casa, le lacrime, sicuri a brinchetto. Adesso c'è il sindaco, uno boom, che è poi indovina cosa fa il giotto. Si prende la tariffa e non lavora mai. Fate un attimo il bianco, vediamo se c'è qualcuno su 10. Attenzione, canale 10 che vuole entrare. Quello che è intervenuto prima, qua era Santiago 9:15, non capisco però chi sia dal segnale, non sono riuscito a capire chi ha parlato. L'ha capito qua chi era, o qualcuno ha capito chi era? Io no, dalla modulazione, ma ti ringrazio per avermi preceduto in quello che ha detto, perché io non mi ricordavo sinceramente, ma non ho calcinale sia che qua era su 9, più di 9, ho visto che era più di 9, però non ho capito chi fosse. Se vuole entrare siamo qua, c'è un problema. Evidentemente non le fa di entrare, non so cosa dirti. Siamo qua. Siamo qua e facciamo le chiacchiere per ammazzare il tempo. Non si può sempre fare dare radio, ogni tanto bisogna farsi una resa a quanto. Ciao Grillo, ragazzi, ti ho riso, dove sei la per fare la galleria, mi ha chiamato il buccio. Attali! Italiano Rocco! Sfigato porta sfiga, tutto il centro. in questo ristorante c'era stato, non mi ricordo se mi ha detto che c'è stato uno scippo, praticamente è entrata gente a rubare, eccetera, e c'era lui cenando, mai successo niente, mai. Vero Edo, ci stanno buttando tutti i vostri di vermi, un casino. No, confermo che c'è il marinaio, perché ho fatto, quando mi sono sposato ho fatto il ricevimento lì, capite, te lo confermo al 100%, già c'è, adesso non so se sia chiuso quel ristorante, ma confermo quello che ti ho detto. Mi sono arrivate le piste, ci sentiamo tra qualche minuto, dai, voi seguite voi e ci sentiamo subito. Ok, Robert, buona pizzata allora. Io sto aspettando che mi chiami la signora qua e poi andiamo anche noi a mangiare un boccone, se mai ci sentiamo dopo. Sì, Antonio, ma guarda, ti dico, la voce, infatti io, quando mi con Natalino, abbiamo sempre questo, con Luca, queste cose, con qualche donato, cioè. Mi pare il sindaco di provare che quando succede qualcosa, sempre così dico, perché ho sfigato, mamma mia, già, tanto lo blocco a fianco, passa via. Dove prende la tariffa? Stavo dicendo, io so perché a me me l'hanno raccontato, io ci portavo i pazienti lì a San Giovanni Battista, no? A ricoverarli lì con l'ambulanza, cazzo di una gibuciata a Ploaghe. E poi facevo, quando facevo l'autista andavo a scaricare le gomme dal gommista che c'è lì a Ploaghe, uscendo dal paese. Kappa, sì, io conosco Ploaghe. Quindi? Sì, insomma, spiegate al massimo, diciamo, Mi che era poco che era successa quella manifestazione a San Giovanni Battista, dove erano tanti mesi senza stipendio, non so se l'anno scorso, due anni fa, e sono usciti tutti gli infermieri, insomma i precari, la gente nel piazzale, l'ha intervistato Antena 1 mi pare, e lui non c'era perché non lo vogliono. Infatti a un infermiere hanno detto, ma è il sindaco, no, il sindaco lasci, dov'è, noi non ci interessa il sindaco, andiamo avanti da soli con la nostra lotta, perché il sindaco non ci fa niente qua. E beh, la griglia tutta la sfiga, io fa malaccia. Certo, quando il sindaco Bigliani lui stancava nel San Giovanni Battista, e proprio in quel periodo ci ho portato l'ultimo paziente quando è successo il casino lì a San Giovanni Battista. Sfigata al massimo, dai, per carità, che poi è sfigato lui e porta sfiga, che brutto. Siamo sfigato da solo, non tu pazienza, sai, non tutti ci può nascere perfetti, sai, c'è quello un po' sfigato, non aveva mai bene niente, ciccia, ma il problema è che questa sua sfiga la porta anche agli altri. E quindi alla fin fine bisogna stare molto attenti, bisogna stare lontano. Non so se è ancora in carica, credo che sia, non sia più sindaco adesso, non sia più sindaco, ma ci dovrebbe essere candidato nuovamente adesso alle comunali. Mi pare che era assessore ai lavori pubblici a Ploaghe da poco, mi pare aver sentito così. Ma povera impresa che capitava sotto, santo Antonio mio. Si fa di sopra loro verso i tempi calcestruzzo e cacaparazzo. Io l'avevo garraggiato. Oh, ma che cosa mi fanno male il genere, mio marito? Garraggiato l'avevo detto. E tu mi scusi, dottor Perosa, si è girata la penna. Sai, lui butto della tasca piraccio. A me l'aveva passata la sfiga, poveraccio. Posso già chiedo se sei in lista. Già chiedo se è in lista, ma credo proprio di sì, perché ho visto da poco, mi pare, dei manifesti, ho visto da poco dei manifesti, ma se non mi ricordo dove, però c'era il suo nome, a meno che non si sia candidato al collegio di Sassari, ma sicuramente al collegio di Ploaghe, comunque già controllo, ci ti voto già bene l'ultima notizia, La volta era Mattesi che proprio della campagna elettorale, mi pare, 5 anni fa, 5 anni fa. Applaudio, ora l'ho letto anche la televisione. Si era incendiata la bandiera all'ingresso del seggio, all'ingresso del seggio. Si era incendiata la bandiera e c'era lui dentro. Ma guarda, secondo me se ne devono restare a casa sua, perché no, non è possibile, tutta la sua sfiga la porta, e ma porta la gente non lo vuole, se non se ne porta ieri la isla, e almeno se ne trovi a casa sua. Sospetti, avevano indagato, Dio, avevano, insomma, mi pare sospeso, c'erano due finanzieri, un finanziere e un poliziotto, un vigile urbano. Perché pare che avessero, era loro che avessero causato questo incendio alla bandiera con la sigaretta o con l'accendino o cosa del genere. E invece era sicuramente l'incendio che porta in capo l'usina al due. Non so, ma si prende a tre. Non ce la faccio a parlare. Si sta cominciando, mi sta cominciando a risare. Dove è di Atari che si entra in qualche cosa che si va a fare che buffonatura e si va a ammazzare un virus, come si entra nei posti così a volte scherzando che avete anche noi. E no, come mai, cazzo, gli hanno ammazzato subito ai due, lo sparano subito immediatamente. L'uomo sfigato questo, perché rendere Gesù Cristo, Gesù Cristo, cazzo, ma gli dare 8 macchine a scemizzato. Poi c'ha, non so se ce l'ha ancora, c'aveva un po' di strada, un paiero blu non caratterizzato, quello vi diceva da là, siccome è cacciatore, quello vi diceva da là, tanto immagini già dove l'hanno fatto, la parata già caccia, la prima guiva, ti dura la paletta, facendo segnalazioni che una macchina mi pare è uscita fuori strada o si era tirata a guardare, intanto non è parata a milli, e neanche su muro, beh, su muro era ricazzo di macchine in verme, tutti ci abitati là. Io non ce la faccio più, mi sei creata. Italiano rocco. Tu mi fidi una nebbia, l'ha detto l'Antonello. Mi fidi una nebbia, Antonio, una nebbia che varia a muro, Antonio, noi c'era muro, se manca in parcheggiata di Iran, ci abbiamo due che cambio carico di tracchitte, e non abbiamo da volarci. Una nebbia, i vari nella mano, non vedere macchine, capita, io dai, assurdo, sei assurdo a vivo, Se rimane in braccio, non carabinieri, in braccio, giù mai. Muro, dai tu. Non sto scherzando mica, tra l'altro manco verso a Caglia, proprio dove c'è, dove sono fatto quell'uomo ristorante, sai che esci lì dallo svincolo, dalla fine proprio, la strada che viene da Olbia, lasci il primo ponte e lasci la rampa, la prima curva che c'è, lì c'era una fila di macchine tutte ferme, e arrivi due, non è stato dalla rampa di Blaghe, ha fatto strike, tutti i virilli l'hanno fatto, cazzo, Sant'Antonio mio. Che spiga di nulla che porta, va. Mannaggia che uomo, è un uomo straordinario quello, bravo, Se te lo vedi, fa troppo ridere, è una persona allucinante, fa troppo, solo come la guarda in faccia, certo, glielo leggi che sfigato. Mi sempre raccontato da questo mio collega, non sono balle, una volta ha fatto da Blaghe, fissa sempre lì al bivio di Saccaggia, perché poi ci sono i guardarei, no? Però nella strada vecchia di Blaghe, quella che poi svincola dalla rampa nuova che hanno fatto, se ne sarà sceso, mi ha detto, minimo 20 volte, cosa succederia? E dopo partire quella macchina, tu. E tendia tutto un anche buccato, ci rimaneva, ma da vedo di tutto a posto, ci doveva bruciare, fatti a 700 metri, tutto cazzo, anche ma questa gomma, ma questa gomma, ma la ragazza la gomma, è la camera di Gundurro di la gometta, ma anche mezzo cieco, e se erano a prendere tutti chi sa fare di braccia e cadere di riguardo al re. E si rimane a dire, perché buccato l'acqua, ma lo c'ha buccato? Lo c'ha buccato, ma intanto mai toccato. C'aveva le ruote sempre nella cuvetta, ha fatto chilometri e chilometri con le ruote nella cuvetta, e ne buttava tutti quei birilli bianchi che segnalavano le cuvette, e quindi le passava sopra, sono di pratica, intendiendo, tutto, e altre cose bruciate. Io, sempre lascia, per carità, che voglia strai chi ha, che i birilli li prendeva, là. E mai ha fatto il gabinetto dopo che ha fatto strai chi con le macchine. Seduto mangiando nel ristorante di Saccaggia a Gatto del Lavoro che fa. Mamma mia, le rigredore. Io in breccio quella mano, fermato giù. E infatti, infatti invece che lui guarda scale, cale, perché è zoppo, perché non cammina bene. Benefitti, così, via, per carità, che insomma, le tutte le cose, diciamo, là, e lui qua è giù. Infatti, guarda, tu mi fai vedere la tua guarda, cosa? E allora mi scappa la prima, benissimo, che pensa a Guido? Beh, è Guido. Se no andiamo in piazza quarantena di Gianni Occhio Rumi. Io sono all'abitudine. No? Cazzo, raffica di questa a 120 km orari, noi l'abbiamo inviato alla Roma stessa, giù mi ha fatto una vaginale. Ehi, ma poi buro. E lì mi hanno diventato grado e due vai vicino a Vigli. Io ma poi pure a rischiare con quel ventaccio lì a terra a Piazza Lantella. C'era uno che mi chiamava, chi è chiamato Natalino? Chi sei? Lui? Ah, mi cazzo, ma sono mazzo, ti sento lui. Il mazzo di radio, il segnale è 7, mi arrivi 7 di segnale. Ma la radio è mazza, capito? La radio è mazza. Mi sta un passaggio, lo guardo meglio. Arrivi più forte pure di 7, quasi 8 arrivi. Quindi la parchetto se non perché è la inteso per miracolo. No, non è attivo, io non, addirittura non riesco a sentirlo, Non riesco a sentirlo. La verità si dica, Natalino, non riesco a tirarlo fuori. Ah, il parchetto non ti ascolta addirittura, ha detto, non so se l'hai sentito lui. Funziona. fatto il QRM nei confronti di Antonio, l'ha detto. Ma il ricordo di utente si entra, che vada a Barcellona motivata con la voglia di invece andava sul 4-1, allora era più difficile, ma se non prendono due gol, per me quest'anno l'Inter vince la Champions. Non è semplice, però c'ha buonissime possibilità, c'è una buona difesa. Se giocano concentrati come erano quasi sempre durante la partita, ma devono giocare, devono giocare, perché Barcellona lì se la gioca tutta, non si sono molto scomposti, sai, hanno fatto un gol in casa, diciamo, cerchiamo di non prendere gol, se ne facciamo due, e per loro è facile in casa fare due gol, è facilissimo. Se vince 2-0 Barcellona, lì tre fuori, ed è una grande, grande sconfitta, proprio di quelle che porteranno alla storia del calcio, perché andare a una semifinale e perderla, cazzo, è brutto, eh? Facevano la massa sentivano da tutte le parti. Ho modulato poco per il tempo che mi avevo di trasmettere, ma sentivo tutti molto bene. Luigi, ma me ascolti? Brasile. Oh, io. No, adesso c'è stato un passaggio che l'ho sentito a Gigino Volcano, basso, ma l'ho sentito, perché ho sentito, mi senti Claudio? Vicino qua ti arriva, Santiago 7 arriva, però c'ho un guadagno molto alto. Non agire, va di mettere un caffè. Come qua, costa Brasile. Adesso ho dato piatto, è la prima volta che muro che con l'antenna appoggiata nel letto, così è. Attento Brasil, Sud America, rosa verso il resto, siamo nord Sardegna, Italia, chiamando, breve. Thank you. fine si smonta. No, ma io ho finalmente la mia stanza, quindi mi viene un po' più di voglia di trasmettere, stare un po' in compagnia, a fare due risate eccetera, ma diversamente quando ci sono problemi poi non va, capito, non va. Perché sei attento quando ci vuoi, non ti avvicina a plaghe. No, assolutamente no. Lui ci passa al largo, più al largo possibile. Ma chi su Brusici guardate cermantissimi? Spiegato com'è? Ma c'è pure Cassiadori, eh. Ui. Cassiadori, qua bionda. Una di tutti che la Biglietti ha tirato un telelastico alla cosa, ma in campo aperto, non c'era niente davanti. Con quelle affari, come si chiamano, quelle con le ghiande, più grandi in campagna, così l'uiallino. Non venuto. Ascolta, una biondata ha pigliato un vetro a 50 metri. Cazzo, mamma mia! Non c'è bravo a cacciarsi, lo so perché ne parlano molto. Mi pare che sia il capo caccia di quella zona, là, delle battute che fanno a cinghiare. C'è bravo. E figato è poveraccio, non ce vuoi fare. Oie. Quindi roba, manco la pizza che hai mangiato. Ho assaggiato due cosettine e basta, non ne avevo voglia, sono stata la sera facendo e poi mi sono rilassato un po' in radio raccontando due fesserie eccetera eccetera e via. Lo stavo dicendo, ma questa antenna che hai fatto, Robert, volevo capire, cioè praticamente il mollone, hai usato il mollone della base magnetica, giusto? Sì, la base di una base magnetica, quelle vecchie antiche che hanno già il PL, l'attacca PL, devi aver filato la canna da pesca dentro, in questo mollone, vabbè, una molla di quelle molto larga, ci hanno filato dentro la misura e poi c'è il coso telescopico della canna da pesca, si allunga, quando è chiusa è un metro e venti, la gabbia è circa 3 metri, 2 metri, 75 mi pare che è. E poi dove c'è il PL, devi ho messo come massa una piattina quadrata con quattro fili che ti fanno il radiale e ti posso dire c'è una radiazione allucinante, una ricezione, sono rimasto a bocca aperta, 1,3 c'avevo di stazionarie senza accordatore né niente, giù al mare, appoggiata innanzi a un pezzo di barumi senza nessuna cosa di sollevarla, palo alto, niente. E nulla è la resa che c'è la fibra, infatti, taglia. C'è una resa allucinante, non c'è Massimiliano Archimede che ne ha fatto una, mi pare che sia 11 metri in alto lì, non so se l'hai vista lì in via Pascoli, fatta proprio una canna da pesca, un tubolare proprio di quelle grosse, di canne da lancio, cazzonde dei metri, ma è una scoppettata, non so se per i 20, per 20 metri, ma l'ho sentita, è una bomba. Quanti bande sono quelle? Sono multibanda verticali, più radiali li metti più bande puoi fare. Come la multibanda quella lì, faceva tutti i tipi da ritorno, pari una barruca di grappa. Ma mi sarà quella che c'è in via Napoli, quella di quello che conosciamo noi, di professor Miao. Quella mi sembra che c'ha quasi 200 fili attaccati. Chi c'è che appava meno la baluca di Raffaella Carrasci? Claudio. Ehi. Quello che è morto, quell'animatore di cose che ha i mammili, che cose che non hai visto. Tutta l'attrezzatura, che fine ha fatto? A chi è rimasta? È chiusa. È chiusa di Gianni. È chiusa. Io conosco molto bene il figlio, si chiama Gianni lo stesso. Ne ho parlato, ne ho fatto parlare. La moglie lo stesso, ma non c'è niente da fare. Era il suo Bia quando è nato, io l'ho conosciuto anche CB a Gianni Uffo. Non c'è niente da fare. C'è la porta chiusa, la chiave ce l'ha il figlio in tasca, non hanno toccato niente, nulla. C'è ancora la sedia come l'ha lasciata lui. ma non attrezzatura. Si evolve tanto di questa scrivania, ce n'è, di tutti i tipi. Linee valvolari, l'ultimo se l'ha comprato, era bellissimo, mi ricordo se era ricco. Poi quando è stato male non è più entrato. Belle radio, belle radio. Senza contare che la direttiva che è abbassata, vedi solo il traliccio col pezzo del master. Ma di vero c'è in terra, ci sono 6 elementi per terra della Riscraft, ma non te ne avete giù. Rimane tutto lì, frate Gassi. Aspetta, no, io non l'ho vista, ma me l'hanno descritta, cioè c'era, a parte c'era una persona veramente preparata, dice, costruendo amplificatori da un cranio, e poi dice c'era una stazione da paura, dice cose degli amplificatori spettacolari, l'antenna già l'ho vista, adesso l'hanno abbassata, c'è il traliccio, è rimasto, ma la gente che è entrata dentro, dice, allucinante quella stazione, c'è una vita di lavoro, dice, di miglioramenti, eccetera, eccetera. Sì, ma tu non hai visto quando c'era la cubica, no? Poi ho visto l'ultima, quando c'era la cubica dovevi lì. Di collegamento ha fatto Gianni, risciuga. Grande. A parte che era un bravissimo tecnico, era un responsabile tecnico della Telecom Summit, era Lucio Vito. Ma l'amplificatore è un 3 kW a colonna. Noi lo chiamiamo così, di quelli a mobiletto, autocostruito, poi c'ha 2 linee valvolari, c'ha il Tentec, la linea del Tentec, da 700 watt, picco, figura di due, tutto lì, non si tocca niente, poi non lo so che cosa possano decidere più avanti, ma per il momento... almeno per un anno credo che non lui. Io ho trovato anche da poco il figlio, l'ultimo rilievo che avevamo fatto nel 29, mi pare, se lui fa servizio al soccorso sardo, e mi ha detto non, per il momento non se ne parla neanche nulla, dice anzi cambia discorso perché non lo voglio neanche sentire parlare, mi ha detto. Ha partito un po' presto, vabbè, magari se lui aveva qualche amico, diciamo, di quelli appassionati come lui, magari si potranno mai, perché molte volte succedono così, questi vecchi radioamatori hanno un amico intimo, dice, mi quando non ci sarò più date tutto a lui oppure vendetelo a questo. C'è nome e cognome del padre, c'è il nome e cognome, Gianni era uno e Gianni era il figlio, tutti e due, capito? Lui ci sta pensando se riesce a prepararsi quel minimo, anche lui è un ragazzo abbastanza colto, soprattutto in elettronica, se prendersi la patente e farsi dare il numero attivo del padre, ci sta pensando, però ha detto per il momento non, per il momento lasciamo tutto così, poi si vedrà come aveva fatto Romeo, se ti ricordi Natalino, Romeo lo stesso, CDO, era il numero attivo di il povero Beniamino. Quando è morto il padre, lui ha fatto gli esami e si è fatto il nominativo del padre. Si può fare, cioè, si può fare una richiesta al ministero, visto che il ricordo, si può fare, però bisogna fare la cosa principale, che è quella di dare sto cacchio di esami che non sono più facili, tutto lì. Poi mi hanno detto di questi anni c'è una bella trasmissione anche il professor, come si chiama, quello che c'è di Alto in Abruzzo, il professor Baffana, per me viene la parola, vabbè, aiutami tu qua. Professor Angius. Capo, mi hanno detto c'è una roba, diciamo, non modernissima, però ci sono belle apparecchiature, considerando il periodo. Sì, ma tutti i vecchi radiomatori, vabbè, sono appassionati di quelle cose, perché allora si lavorava con le valvole, si cercava di dare il massimo questo cacchio di valvole, alla fine sai, i vecchi radioamatori come il povero Gianni, come il professor Angius, come tanti altri, Gianni Ticca, che adesso non c'è più a Sassari, a Bettencontinente, lavoravano tutti con vecchie linee Drake, con vecchie linee Sommerkamp, la linea della Tentec, che io l'ho avuta, tra l'altro ho avuto 250 watt, così via, cioè tutte quelle vecchie linee valvolari, che però chiaramente sono persone che è una vita che adoperano quel tipo di apparecchiature e che quindi li sanno usarle. Secondo chi le usa solo col preaccordo ci rimetti le valvole, di sicuro avrà la pittura e farà venire un sindaco di Broghi. Vuoi prendere a qualche salata e qualche poi fa girare per Natalino? Sì, capo, sto ascoltando io, non c'è problema. Ebbene, infatti, purtroppo quando succedono queste cose dipende sempre dai figli cosa ne pensano, cosa non ne pensano, se bene, figli potrebbe anche ripensarci, prendersi questa benedetta patente e entrare lui con il nominativo del padre, buon'anima. Lo so, sono cose belle che si potrebbero fare, giustamente, per chi ha la passione della radio, si può anche fare, io perlomeno, io sono orfano di padre che ho 3 mesi, ma se fosse stato al contrario, io l'avrei fatto sicuramente perché ho la passione della radio e quindi avrei portato il nominativo anche io di mio padre, però lui dice vediamo, può darsi pure che con l'andare del tempo riesca a maturare questo suo desiderio. Per il momento è solo un'idea, poi più avanti magari si vedrà, non lo so. Comunque di radio ce ne ha tante, belle, antiche, eccetera, eccetera, però c'ha delle belle apparecchiature, belle strumentazioni, tra l'altro, strumenti all'avanguardia, cose molto belle, io ho visto tutto e ci eravamo visti e parlati 4-5 mesi prima di stare male, era un po' in difficoltà, comunque, è così, ma c'è anche l'altro Natalia, quello di Porto Torres, il bionico. Sì, c'è anche quello di qua vicino, di vicino dove stavi tu. Sì, l'ho saputo, porca miseria, ma lei dottore là, sì, c'è un picchiere, ma così di colpo, anche lui, così di colpo, vabbè, quell'altro di produttore c'è una vita che però oramai non regge più, sempre bugiardo era il ciclino, no, manco per l'aria va il ciclino, proprio manca più l'aria va di più. Mentre questo stai leggendo tu, senza fare nomi, che è abbastanza conosciuto, mi dispiace davvero. Era un po' così tempo fa, l'avevo visto in via Pirandello, mi aveva detto che non stava bene, poi infatti è mancato agli ultimi rally, non si è più impegnato a far niente, qui e là, e so che non sta bene, insomma, non vorrei che stesse male. Davvero, ma comunque se sento Agio Maria glielo voglio chiedere, lo sento sempre domenica mattina, non entro mai, se domani mattina sono a casa che sento Agio Maria glielo chiedo a vedere se sa qualcosa. Claudio, sì, vabbè, è quella fianca a me, vabbè, non sta male, però sta facendo una diretta ancora e io dici. Ci siamo visti da poco dal signor Mario Forbici, l'ultima settimana che io sono rimasto praticamente giù in via Pascoli, ma c'era anche stamattina in via Pascoli, ci sono tutti i giorni, vado a vedere se c'è posto, vado, ci vado sempre. Stamattina non l'ho visto, sabato scorso l'ho visto, ci abbiamo parlato eccetera, e ero qui in fase di attività, ma non lo so, ma c'era quasi. Cosa avviene, mi sto dicendo qua? Ehi! Io sinceramente qualche volta ascolto, ma io uno non l'ho mai sentito in vita mia, come non l'ho mai sentito in banda cittadina. Tutti i radioamatori ogni tanto qualcuno entra, dal peggiore del mondo al migliore del mondo, tutti si abbassano ad entrare, ma lui non l'ho mai sentito assolutamente. Prima era CB, perché ho CB una vita, però da quando sono pigliato la patente mai sentito io. A più ne era 27, non ne ha più. Gli era caduta e quel lavoro lì l'avevano fatto alcuni amici radioamatori, ma sino ad anni fa, tu lo sai, aveva l'antenna 27 e quindi qualche volta entrava, capito? qualche volta entrato. Cosa sto dicendo? Mentre invece l'altro giorno ho sentito a quello che conosci tu, l'animatore. Abbiamo fatto due chiacchiere in una casa, Giovanni, così si chiama Giovanni. Scusate, vado a prendere un bicchiere d'acqua. Sì, Giovanni si chiama, quello c'era 73 la patente, solo che era più di 20 anni che non aveva attaccato, poi parlando gli è ritornata di nuovo la corsa, ma si può dire che gliel'ho fatta venire io la voglia, poi si è fatto convincere la cosa, da Walter, quelli gli hanno dato qualcosina di attrezzatura, e l'altro giorno prima dell'officina gli ho toccato, io l'antenna, che era un po', lui si era truncata, gli era saldata con quell'affare acciaio liquido, l'ha fatto un po' così girare, un po' sistemata io, perché lui stava facendo la ditta, l'ha truncata in due. E da dentro officina proprio, all'ingresso officina ha collegato questo tipo vicino a Roma, non mi ricordo, ma quello dice mi sta arrivando una schioppettata in romano, gliel'ha detto. E l'ha detto con quel coso, con quello Iaesu che c'ha lui, una dei fumi sembra che era. Ti sto dicendo, quello gli ha detto, una bomba, non ci credeva che fece, ma la va bene all'inclinazionale. Però ci è rimasto, ma che male, forse non sta parlando con me, anche io gli ho detto, no guarda, forse sta parlando con qualcuno altro, invece era lui. Bravi, un interrogativo, la frequenza del nazionale. La frequenza del nazionale? Ah, se te la dico, perché sinceramente non me la ricordo neanche io. Oh, cacchio. Eccola qua, 431-862.50.5. Shift meno. No, ma mi interessa l'uscita. Mi interessava l'uscita. Difetti tratto, che ne avevo un'altra? C'avevi 431-900, ma non c'è più quella. 431-862.5. 862.50. Sì, Anto. Abbiamo sentito che sei andata bene. Mi raccomando, stai attento quando ti alzi dalla sedia. Potrebbe essere in agguato l'avversario. Non c'è problema. Maraviso. Mi Anto, a te sta chiamando. Sì, da Canaria, io quindi di due guardi a tu. Ma dietro. Un canarino sta chiamando qualche mese, della Valsalduvia. Vabbè. Qualche dei canarini riesce di male a comprendervi. Allora, tanto comprendiamo noi. La gente che trova nel calcio, con l'italiano loco. E chi sa che mi dia io? Allora mancavo, capì. Sono fatto la tassica, beh, se la sento. Così poi passi due secondi e ci parliamo. Da, provo a vedere se c'è. Che così io ti difendo qualche. Ma passo un po', un attimino, scusate gli amici. Elena, quali gli aveva dato a Luca il numero di telefono, un tempo fa, finalmente. Italiano! Italiano! Ma come siamo da Canaria? Glielo dico io. Attento, Canaria, vamos a ver se va escuchando Nord Sardegna Italia llamando. Vedi, prego. Questo è Carlo, è Tenerife, Canaria. Escuchiamo al 100%, mio hermano. 73-51, por aquí esto del Curará, buenas tardes. Adelante, aquí, estación 165, máquina de noviembre, Oscar. Nord Sardegna, Italia. Vamos a ver. Mucho fuori Messico aquí, en Italia. ¿Cuál es el local? in Italia, eh? Buonas tardes, il 73-51 io a Tarriego. Hasta luego, mi hermano. Buonas tardes. Gli ho detto visto Napoli. Io ho visto il padre di volte il cocinero al ferro, cioè con due molette in mano. Ma non si attaccano a vedere tutti e due, perché lo sapevano che Idra aveva tagliato l'antenna, a volte. Vedi cosa c'è striscio che andava a vendere? Stavo parlando, carissimo, senti, ho detto molto il pari. Tanti sciapuri non avrebbero l'antenna, a capo a terra, tagliata con la mola. Questo è carissimo, non c'è mia famiglia. No, e comunque voi direte, io quando ho traboccato l'acqua per scendere giù, tanto mi mantenne di non cagare a capo a terra. La prima cosa che avevo fatto, perché mobili ce n'erano tutti, qua c'era un po' di arredamento che dovevo portare via, ho detto ma quasi quasi me ne scendo la stanza da letto giù. Beh, la toccando facendo un caldo perché io sono andato nel mese di luglio giù, in via Pascoli, giugno mi pare, sì giugno, è di 3 anni fa, piazza Dutti. La notte, fremoruletto, finalmente, almeno riposiamo così poi domani liberiamo tutte le altre stanze e ci entrano i muratori dove sono adesso. Sì, tutto ok. Beh, ha giubiazzato la drammazza, cioè il letto, invece di affittarli in piedi alla rete, era appoggiata ai cosi di legno, mi ero dimenticato, a quei tacchi di legno che ci sono nel giro a rete. Cazzo. San Badarella ci ha pigliato la notte, no? Io ne ho stata messa lì da 18. Claudio, quando mi ha regalato guitarra rosso, che stavo andando a fare l'officina. Ehi, non puoi mica solo male, si è rotto il piede, cazzo, ti ricordi che mi hai scialato tu, Roma? Cazzo, sembrava il film di Fantozzi, ragazzi. Comenti mi ci ho bubuciato l'oretto, mi si è alzata la drammata, mi ha capovolto, cazzo, ma cuvacato, non vedo più. Un dolore, cazzo, un dolore. A mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, la solita quella di sotto, cazzo, pari a una bomba. E che non è successo pure a te, no? Una notte di Natale, gatto, mi tocco in camera da letto, mi avete matrimoniale, gatto, mi si gribba, deve essere che la pratica si arrette, vero? Erano quelle reti di tipo vecchie, adesso ce l'ho con le loghe, cazzo, non è bigliata nulla. E mi si tronca nei piedi di la rete, tutto un pianto, ma dove uno sono caduto in quella qua, tu mi dovevi venire. Io sto scherzando, mi piace Roberto qua, me l'ha saldato lui il piede, perché l'avevo appoggiata praticamente, non so se ce l'avete anche voi, non so se sono ancora, ma il mio era così, c'aveva questi tacchi di legno attaccati ai bordi del giro rette, no? Quelli che si mettono, quindi appoggiata lì, però poi è per livellare quello e poi ci vanno i piedi, cazzo, è un convinto che viene nei piedi, invece veniva uno giù, infatti l'ho spettrato come si è sollevata la rete, un dolore, cazzo, se ne mangio mai mi grascia, Dio Maria, cara. Altro che sindaco di Bruaghian, tu madre del Dio sempre stata. Ui, a me, per carità. Ma non mi deve dire la frase che ha proprio a me mi successe la stessa cosa, proprio dalla macchina si sono raggiunto, cazzo. Infatti me l'ho comprata nuova la rete, io ce l'ho con le nuove adesso, era di quelle reti vecchie, no? Ma l'ho chiamato salgato, cava mi chiede la mani. La cosa lì, quando si dormito, cazzo, mi piace così, è feo, Non è più da sessuale, in realtà, di così. Ma te la cosa, una storia, ci siamo fatti una risata al giorno. Mi sono cantando. Cazzo. Mi si sono pigiati, ribelli, non la fermate, se ho caggiunto. Natalia. Sì. mi sono pisciato dalle risate, per un po' non muoio dalle risate. Allora, ma a casa, ho preso una notte di Capodanno, avevo organizzato un cenone in casa di questo amico mio, in zona della Budibuti, c'era una villetta lì, e di quelle su due piani. Al primo piano, noi eravamo sopra, stavamo tutti mangiando, giungendo, vendi, e vicino a questa finestra c'era un'altra porta che passava e scendevi al piano di sotto e come si chiama? E andava in bagno, mi sei sbagliato, sono stato arrivare da questa finestra e per non fare tutto il giro scendere dall'altra scala dove saltare questa finestra, questa davanzale, andava a finire nella lampada vessale e scendevi giù per andare al piano di sotto. Chi si è sbagliato finestra, si è parato dal primo piano, tipo come fai, tipo che era quello olio cuore, chi si è brincato la finestra dal primo piano, si è parato sotto e c'era un altro fosso, un altro buco sotto, si intende che c'è un rumore, boom! E noi non aveva sbagliato finestra, nel muso ho lasciato il marubuccio, tutto fracassato, e si mette a uia, uia. Dice, l'addome non è stato alle gambe, no? Come se ha saltato, si è sbattuto il sedere alle cose, come si chiama? A parte dietro del piede, di dolori. Ci stava mettendo a piangere questo tipo. Guarda, noi i sciatti ci siamo spaventati, ma la cosa più bella è che chi sa, ha sbagliato finestra ed è caduto dallo primo piano. Ha fatto così. Ma mi ha detto, ma mi si sa, una volanina di Ruzzaru, una cosa analoga. Però lui se ne stava andando a casa, siccome il suo c'era preso, ha messo delle reti, dove usciva la luce, non si vedeva niente, per non passare i cani, no, lì. Però l'angelo non lo sapeva. Anzi, ci punto, ma intendo ogni rumore, cazzo. Ed era mio fratello tutto quello, il rabbinato che si è fatto una veste e all'improvviso non vedi niente e c'è trammati figlio non di vacanza a non usare mamma mia tutti fracassati quindi si è fatto la veste a gira mi drappolino quando mi ha raccontato di domani che si viaggia mai che ha aggiunto la cosa di risati figlio di un mio fratello a voi papà di ogni urlo figlio di Gesù tu stavi come la casa di ha brincato visto per sbaglio. Allora, c'è presente Piazza Italia, la provincia, tu, quell'altra via, una è da verso su, verso via Roma, e l'altra che via è cos'è? Via Molescott, come si chiama? Via Molescott è quella salire o quella scendere? Quella vicino ai Portici, cos'è? Via Molescott, quella dei Portici. C'era una manifestazione di studentesse, eravamo ai geometri, parliamo un saccaccio di anni fa, meno macello, polizia, tutto, alla fine ha iniziato a fare un po' di macello la gente e la polizia l'ha iniziato a prendere quelli che capitavano, la gente fuggi, chi tu Simone Abrinca, convinto che era masso, fa tipo lui, olio cuore, dove c'è quella specie di paratia, l'hai vista che da sopra quella via Mole, solo perché ha saltato, convinto che era masso, e poi sono roba di 4 metri, a fare un brinco anch'io, tipo olio cuore, convinto di c'è, sarà un metro e mezzo di brinco, roba di 4 metri di volo ha fatto. È più alto di 4 metri secondo me, perché adesso c'è il muro della provincia lì, questo c'è alto. Cioè, sono stato convinto che fosse il parapetto, come se anche un parapetto, quello ho fatto con il marmo, cioè presente quel parapetto in marmo. Io ho convinto che eravasse sotto invece di danni, io non penso meno di 4 metri. Io avevo anche molto parcheggiata, no? Se fosse nato a Roma Lubrio, era a Biglia Oasi. Avevi ben bene in bocca. Ci maniero già la tua panna. No, almeno. Ecco. Sì, ma la voce è di Angelo. A chi lo dura, lo guardiamo un custode ha rubato il nome di Agri, ha preso la nieta, no? Un di vera Agri. Cazzo. E la notte lui aveva messo queste reti di letto, queste cose così, per non passare i cani. Ma lui non si vedeva, e Angelo non l'ha avvertito che gli aveva messo queste trappole. Cazzo, mentre cazzo detto, figlio di una grandissima pubblica. Ma io dico, lui aveva inciso, cazzo di urlo che ha tirato di quanto si è fatto male. Tu, come nelle vini riesce, ma ogni volta che sono. Mi fate troppo lì. Amici, come ti cambio piazza, venga, non con nei punteggi, no, tu. Che metti la corda e fai il carico là sotto, no? Capo. Mi fatto il tuo maestro Giovanni Appioli. Ci mettete la gente veloce, veloce, veloce. C'erano due manovali, no, giù, che stavano trasportando la roba. E ci pone sempre a bordo di Ghillo. Alla fine Ghillo si può accorgere, ma la cosa, la fermo della Matto Giovannino. Poi invece di carregarli di Casarelli, stavano facendo praticamente dei muri a secco, capito? E quindi c'erano quelle calderelle grandi in ferro, no? Tu ce le hai conosciute. Che riempivano le pietre e tiravano su quella carrucola. Ci mette due di belli, non li vidi a io, so che lasciami. Sono stato, mi pare che erano tre elementi di ponteggio, quanto sono, 2-4 metri. Non li vidi a Casarelle, perché le Casarelle rimanevano un po' più indietro, sotto praticamente, sotto il ponteggio. Hai domande domande forte una cosa, dì a Vosseva, che noi siamo sacchi, invece i bulli e i belli, la Casarella viuda. Si appicca, ma fa forza, tira la casella e si va tutto quanto in tre con la goccia. Ma quella era l'inquinto. Dario. E che te lo dico? Ti sento la cifra per il piatto che muovisce, cioè, la casella è vuota. Il peso suo ha tirato su in fretta la casella e deve fare due la goccia. Ma non si è fatto niente perché è caduto dritto. E ne ha di tutti i colori, ma te ci vai, te la pure mandate, ma non me la metto. Dimmi, Roberto. Questa è una cosa vera, non è una balla, perché c'era presente una persona, un amico. Questi muratori stavano impastando, c'era la betoniera, c'era presente la betoniera e c'era la ruota, quella grande dove ribalti la betoniera. Questo qua stava facendo un impasto, questo muratore, e decide di accendersi una sigaretta, pigliare la sigaretta, come va il solito, la sigaretta in bocca, e poi va a prendere l'accendino, c'aveva nella tasca l'accendino, una mano teneva la betoniera e con l'altra andava a prendere l'accendino. Prende l'accendino, c'era la tasca bucata, arriva a finire in mezzo ai pantaloni, nelle cominciano la gamba, e la prende per farne accendere l'accendino e muove la gamba. Ma fa il movimento per farlo scendere giù. C'era questo collega suo che era convinto che si è affidato la scarica elettrica e è andato con la pala e ha avuto un colpo di pala per saccarmi giù dalla betoniera. L'hanno trovato all'ospedale, dice chi c'è Marco, l'hanno portato perché è svenuto, quello non si è reso conto di niente, dice caso sei uscito, lì c'è Marco, gli ha tirato un colpo di pala a fianchi, dice non è Marco la voce ha coincido, l'hanno portato direttamente all'ospedale. Sì, conosco anche il titolare. No, lei è il titolare. vabbè, il corso, se non c'è il titolare di lì. Vabbè, le cose presidente non è il coso usai. Vabbè, sì, presidente, vabbè, ma non era detto. E di tutti quanti siamo succi, quasi tutti diciamo che la sede più importante. Chi va lì viene di su di qua con un pezzo di una macchina. Ce l'hai presente tu, di noi ti ci il deflettore, quello per chiudere il vecchio 112, 127, c'era quel galletto, ce l'hai presente? Sì, anche quello c'aveva la 500L, quelle 500 vecchie. Quello lì sto dicendo, bene che sul tipo tutto uno dei paesi, tutto timido, un bel impacciato, dai. E li fa a vedere questo pezzo, glielo metto sopra il banco e quello lì li fa, mi scusi ma di dove? E chi tu rimani? Come di dove? Mi dica di dove? E chi te la dico? Di Cagenghe. Macchina aerea. Cazzo, riesce in cazzo dentro, un bambino. Cazzo dice, dove c'è prendere un sindaco? Mi dici, insomma. Cazzo, l'hai detto, di dire, mi scusi, allora gli ha fatto riferimento, mi scusi, di dove? Di Cagliari. Una vacca di circa 2,50 m. quanto è questa scrivania. Lui è saltato e è sceso dritto dritto in acqua per farsi vedere. E infatti ci ha visto il sangue, ci ha fatto male. Poi c'era gente lì, l'hanno tirato su e visto che dopo è arrivata l'ambulanza, l'hanno portato al pronto soccorso all'ospedale in casa. Ma io avevo avuto un colpo di glico a capo, mentre ha fatto Guido a che era avuto la bara. No, ma non vedete particolari, Clark. Che? Allora, abbracciami una pilotina, diciamo dovevo fare un salto di un metro, non era un salto grande, c'era anche la pedana, ma per comodità abbiamo riempito la pedalina, perché facevo una pedalina per saltare, vado a fare il salto per salire dietro, nella spaghetta di dietro della barca, come salto e l'ho visto in roba normale, l'ho visto c'è da uscire, perché sono andato solo a controllare la barca, c'erano pantaloni, ma lì, cioè tutto vestito bene, non ero tenuto da male. Anche se era l'estate, come salto mi si aggancia la scarpa, ci sono le colonnine del coso dove c'è l'acqua, il rubinetto, e si aggancia il laccio della scarpa al coso, al rubinetto, come ha saltato, e mi hanno fatto perdere l'equilibrio e sono caduto la faccia a terra, tipo un tuffo in mare, per salvarmi la faccia ci ho messo la mano e sono caduto per non sbattermi al motore di dietro, si sono preparato a Mugliu direttamente dritto dritto. Io penso ci avrò messo una frazione di secondo e sono riuscito a uscirne dall'acqua, tutto infuso dalla testa ai piedi, perché c'avevo i documenti, tutto quanto, alla fine ho detto ma non ho detto male a casa, ho detto come ti voto, perché ho detto pure le mutande ce l'ho bagnato, sono venuto a dire che avevo un costume da bagno di mia moglie, giallo, ma te lo conto, ma oggi poi sul costume di sotto di mia moglie, di vestiti non ne avevo, e era uno che era un tipo di lì, un pescatore, mi ha detto guarda l'ha preso io, mi ha prestato una cerata di quelle gialle per le lumache, ha detto se mi fai ma la polizia tu fai di conto d'estate con una cosa del genere, sono dovuto salire a Sassari di mutande in questo bagno di sotto di mia moglie, è una serata di che ti va a far ciocca. Io a me Angelo gli attani prima due carabinieri erano i mutande tutti e due. Ti chiedo a Roberto l'estate con la tutta cerata dovevi essere bello. Mamma mia, mi aggancio, avrei preferito andare a petto nudo e solo col costume, che fosse giallo, celeste, e grazie a tutti. Però avrei preferito a quei livelli 100.000 volte, ma di cerata la mania avrei messo. Vai, ma che va la prendiamo una cicca, va. Stasera è di racconti, Sì, a me mi è capitato davvero una volta, non mi frequentava solo, ma è successo a aprirmi. Cazzo, da dove sei, ragazzi, attraverso il cazzo del semaforo, a piedi, lì c'è il cazzo di 22 macchine, imparate, io non vorrei che ricordo, buh, non mi sento pieno, io, cazzo, se mi parlo di due, la discussione, no? Come si fa, no? Come era andata, e che cazzo mi ha mai visto? E io dovevo rispondere, cazzo, ti ha sbagliato in pieno, perché è l'altro deciduo, e la briccia, non hai visto, hai visto la briccia, e chi mai indiano, mai pigliato? Natalì, veramente siamo avanti con Salvatore per la patente dell'aviatore e ci siamo fermati anche delle formate unità, stavamo camminando, ma basta stare veloci all'ingresso di Cagliari, arriveremo avanti, siamo stati a 80-90 e non sapevamo in che direzione girare, mi fermano che viene un tipo, chiediamo informazioni, giro di colpo, tu fai conto che un tipo che è Marco, se ti incendi, giro di colpo, mi fermano, chiediamo a quello, ma ero veloce, sono stato da 80, in questa piazzola, e c'era questo tipo dentro, vado a frenare, c'era la tabletta, di mano la mantengo, io dico, questa è una rapina, sicuramente se sarà stato convinto che lo stavamo rapinando, se ne è fatto una tagliola, gli ha detto, mi scusi, dove dobbiamo andare per cercare questa Bibbia, non riusciamo a capavitare lassù su, dimmi una tagliola. Sì, quello era volontario dell'ambulanza. Anche io ho preso della cacca dei pantaloni e mi si dà questo, perché non me ne sono accorto che ero così veloce, allora ho fatto mi ferma di no, che dirà lì. Freno, giro di colpo, freno, c'era un po' di sabbietta, la macchina ci è uscita di là, giù ma non del piccio. Cazzo via, cazzo non mai visita il villa di niente. E hai chiesto, ma tu dove ci vedi? Ma vedete, sì, dimmi, dico, cazzo, una sinetta, e dimmi, mi accorciamo questa banca, dico, ma io ti dico, a buffoello, a birra, che non se ne va, cazzo, dice, ma non mi piscio, e io, non taglio mi sta, ci mette in pieno, e io ti dico, ma la breccia non è vista, e chi cazzo, ma indiano, ma è pigliato. Cazzo, in chi vi genevo, in chi possiamo dire, ma, e noi adesso in cruz. quello di oggi come prendi durava una un abbraccio al marito dopo che le trappoli da tutto a me manco di viso mio angelo ma ci ho messo fanno anche la rigana ci ho messo i cinguaretti così di metti di lì tu era me cazzo mi ci ho messo un sacco che ha giunto lungo lungo non è tanto è tanto lo danno che ti pagano cazzo ho preso sì perché la cosa inaspettata non te l'aspetti all'improvviso cazzo e ho preso ma chi tu una volta racconta lo zuzzaro e sì sì devo la mandare a dirlo io ho preso già stavo andandosene via perché lui era fidanzato ancora non era sposato era dal suo e aveva accompagnato la mia cognata e se ne stava andando a casa lui cazzo ma gli doveva poi la Dracula Giulio di Dio non è tanto lo dolore che non te la felici due ehi visto è a lui ma se invece era una scena io ragazzi su 5 ma sono tremendo ti porto un indovinello Anto io dimmi dimmi tu lo sai perché i barboni usano il cartone usano i barboni per coricarsi il cartone della pasta barilla per coprirsi morire come il paro anziché il paro idraulico di un amico di Alghero, mi ho comprato, Claudio Spavè, un palo idraulico che alla fine era mondo. Cazzo mi dai la sala, gru? Allora, guardi, sì, Natalino già l'hai deciso. Ma c'è da ridere, perché lo voglio terminare, prima dell'estate lo voglio stampare perché è una cosa che abbiamo iniziato anni fa un po' tutti insieme, di quelli insomma che eravamo allora, e ne voglio dare una copia a ognuno perché c'è la collaborazione appunto di tutti, quindi non è una cosa, era una cosa che avevamo inventato. La portiamo a termine, quindi ve lo sto dicendo. Occhio alle frasi, perché io se sono all'ascolto registro tutto, ma quella è la fine del mondo. Quella è la fine del mondo. Coppa, in campagna, domenica, mi, a chi sabato non sono riuscito. Domenica sono andato in campagna e mangio buttato tutto l'aibo della mendola. Aiuto, che cos'è? La via Venchivi, via mendola. E tu vuoi cannocchiare? E tu vuoi cannocchiare? Maledicato, dopo un tubo cannocchiare? Come se vuoi questo blocco, questo tubo cannocchiare? Che ti vengo? Subito, guarda tu, se senti veramente quel giornalino è una cosa che ti fa di morire, ti fa di morire. E com'è quella razza lì? Va via. Cazzo, tanto coppa, chi tu sempre chi sta facendo? Coppa, la rimane tutta la di cucato. E parolalo, anche va via la freba, ma gli ubbigliato un attacco in birigna e mi è passato tutto. Che finita, vai, roba. E uno mi fa vedere gente del genere, è qua. E quando Luca di Bulma la fa di matto di Luciano su qua. Perché per carità era quello che stanno scendendo, insomma, in quei periodi era una cosa allucinante, ma ce n'era una dietro l'altra, ce n'era una dietro l'altra. Adesso proprio, l'altro giorno mi stavo mettendo a posto i cassetti qua della dove io ho la mia stanza. E così mettono a posto tutti i documenti del summit eccetera, delle radio. Taglio domino il giornalino, porca miseria, io cercandolo, perché sono già due o tre fogli, quindi stampati, poi messi bene al computer, faccio una cornice, una cosettina dai carina. In cartoncino e ce lo distribuiamo, così vi fate due risate, ma canto in casa, canto in neva. Se mi metto a raccontare ce n'è. Uno dice la più buona, l'altra carina, ma sempre queste persone, queste due persone sono troppo toghe, non è che sto criticando per carità, ma il modo di parlare, cazzo di lacrime, di baracca. Che poi magari non si renderanno conto quando parlano, per loro è una cosa normale. E sai, sono grandi, insomma, chi da lì lascia di incidente è una cosa allucinante. Ma voi mi sta, poi cazzo, la c'è gioia, no, cazzo. Ma voi mi sa. Cazzo, tu la voi mi sa. E coso, sempre quello lì mi ha detto, ma questo era poco, Ojai, infatti l'ho segnato, ci ho guidato un po' di domani, ci ho dovuto andare dal dottore, beh, mi ha fatto questa visita, mi sta entrato con il televisore dentro, con questo televisore, invece col monitor, con il televisore dentro mi sta entrato qua a vedere tutto il che avevamo. Città della fisarmonica, davvero, che non era fame, si va nella fisarmonica, era fatto, andata lì, lei ha fatto tutti gli anni, ha fatto, cazzo di uno o due ne ho visto io, cazzo, mi ha preparato io, ma io ne ho visto uno o due di quegli esami, li porta pure i malati lì a fare le gastroscopie, la sotto la sopra. Oh, hai visto che andate a comprare sempre quel negozio là, qua? Va a prendere il mastice. Ecco, come lo vuole il mastice? Di chi c'è il dentifricio, come via? Sono il dentifricio. Anzi che ha il tubetto, perché dice, in cartuccia tipo il silicone e il tubetto. Dimmi di là chi c'è il dentifricio. Cazzo di tifficio, invece di un tubetto. Ma mi ha preso la papparella, la papparella. Ma te la metti tu, hai detto? No, ha detto, hai non amare, se sei posto un strumento. Ha detto, papà, abbasciti la papparetta. La papparetta. Non mi chiede. Roba. Ha portato l'autobalanza. Il freddo. Poi chi trova la pasticceria vicino a voi, mi Luca. Ah, la torrella. No, vabbè, non diciamo la via. Un amico mio. Mi fa prendere le paste qua, mi dia una dozzina di paste. Tu dici no, una dozzina di voglio. E poi i quadretti sì. Un Luca che vende il carro su quella via d'alluminio. Ma no, arriva la torrella. Lui, sentite quello che ho detto poco fa di una persona. No. Hai visto quando è successo quell'incidente mortale via lì nella Budimundi? Beh? È stato lui da passione, no? Ti ha mai capito chi? E ha detto, c'è sciogopà, soffra di rivigere il fuoco con la forbica, ma chi erano incrassati da dentro invece di quella gesuia? E la gente di quella forbica. E l'ho scritto in quell'affare, tanto lo devo ultimare, cazzo, lo devo ultimare perché è troppo bello quel corso, troppo bello, ma sta dicendo Antonio, va. Lo dobbiamo chiudere, adesso se c'è qualche frasetta ancora da inserire, e poi facciamo le coppie al computer, tu mi sei pratico, va, ti rimani noghi, mi dai una mano, io letto, tu scrivi, e poi stampiamo, intanto c'ho anche la stampante adesso, tutto. Prendo dei cartoncini belli e facciamo una cornicettina con quei sistemi che ci sono adesso al PC e poi ne diamo una copia ognuno, perché è una cosa da leggere, tanto da leggere, ti ne vale le lacrime, altro che il sindaco di Blaghe. Ma i pubblici si tratta, ma quelli pubblici si vuole dire. Claudio, racconta che abbiamo visto con canali Gianni, è anche da vento. Mamma mia, quello me lo ricordo per quanto capo, in quanto non riuscivamo a mantenere il tubo, cazzo. Manco male giunto un capflipper. Sant'Antonio mio. Addirittura il tubo al vento mantenendola in quattro e due io tirando con la fune ci ha piegato anche il tubo e l'abbiamo dovuto ricambiare. Tu immagini niente il vento che si è posto. E se vai, ma il coraggio posto, però. Ma guarda, sinceramente la mattina non era così brutto, perché quando siamo andati verso le 9:30 mi pare, no, Natalia, una cosa del genere, e c'era questo venticello, c'era, si sentiva, fatta io, muoviamoci, abbiamo preparato tutto. Si è messo questo maestrale, quando abbiamo iniziato a tirare l'antenna, ma maestrale, però, ci mantenevamo uno con l'altro, e mica potevamo mollare, se mollavamo l'antenna, ce la buttava giù, faceva l'anno. L'anno lì dove lì. Beh, lì è una sua volta, è vero. Dai, mi tira. Sono curato, mi diviati. Io sono scritto a partecipare. Oh, scusate un attimo. Vabbè, dai, io interrompo, dai, che domani mi va a stare presto. Dai, vi saluto a tutti, divertitevi, dai, c'è una bella discussione spiritosa. Ciao Claudio, Luca, Falchetto, Natalino. E non so se ci sia qualche donato all'ascolto. Correti da parte mia. Ciao, aspetto i saluti e ci sentiamo alle prossime. Grazie Roberto, dai, 144 la devo fare e tutte le prossime avanti Claudio per il saluto e la girata. Rubi, ci aggiorniamo, dai, domani, se coincide. Altrimenti già ci vediamo lunedì. Ciao, grazie per il tuo intervento, per la tua compagnia. Buonanotte, a domani. Vai, Natali. Ciao, Roberto, alle prossime, buon 144. Ma c'era anche la discutendo, ma l'ha detto, e vedendo sotto i baffi a scrocco se fa pagare il biglietto, vero? Io pago la corrente, da cui rido a gratis. Ciao Roberto, sentiamo nel prossimo. Gesce, gesce, Adria, per carità. Canti cosi, canti cosi. Ui, ui, ui, ui. Ma ce n'è una che mi ha fatto troppo ridere, che stavo leggendo proprio in quel giornalino da poco, era una frase detta così, ma molto spontanea, proprio in queste o così come siamo adesso. Gianni a volte la ripete così per ridere. E c'era uno in questo con lui, non mi ricordo chi era, però che ogni tanto devi venire allo giorno, e io gli ho detto, ma quanti sto avendo? Abbacchio. Abbacchio. Ma stavo pensando da poco fa, perché non pubblichi in rete? Almeno è diventata una cosa nazionale. Non è un'idea malvagia. Allora io purtroppo sono un po' esonerato da alcune cose, ma non è quello il problema, posso anche farlo veramente bene, perché ci sarebbe da pubblicare da preparare un bel sito dove appunto pubblicare questo giornalino con la partecipazione dei civiti, ti offre sempre un problema a mettere in un. Però chiaramente bisogna chiedere un po' a tutti se sono d'accordo, anche quelli che ci siamo un po' estralati in questo momento. Non è un problema rientrare tutti nelle ranghe e cercare di fare un qualcosa che insomma fa piacere, fa così per divertimento. Io sono d'accordissimo, non ho nessun problema. Non porto rancore con nessuno, no, non ho niente con nessuno. È sbagliare umano, quindi si rinizia da capo e si cerca di fare un qualcosa che può essere utile a tutti, ma sempre per scherzare e per ridere. Però ti dico che verrebbe una bella cosa, una bella idea, Adriano. Sì, una bella idea. Bisognerebbe completarlo e pubblicarlo, fare una cosa bene, ma io non ho problemi a organizzarmi, si può fare tranquillamente. Infatti, a fare un sito del genere ci vuole un paio d'ore. E si pubblica anche la liberatoria. Se nessuno risponde, la liberatoria è automatica. Ed è una cosa simpatica, si ride anche al di fuori della radio. E invoglia anche di più gli altri ad ascoltare, per sentire. Perché delle mie arti micidiali si sentono in ogni dove, non sono la 27, delle sparate grosse si sentono molte volte nelle bande OM. Aria! Ehi, Natale! Stasera che eravamo io, Graziano e Gian Maria che si è entrato giù, del virus. No comment, come questa sera sono i bei momenti di Gionfra, fa piacere, caspita, e ce ne fosse. E ieri però avevamo un discorso serio, ieri stavamo parlando di antenne. Beh, Natali, facciamo un giorno sì, un giorno no, sabato e domenica ci dedichiamo alle barzellette, poi durante la settimana ci dedichiamo alle cose sì, e se no diventa troppo monotona la cosa. Però questa cosa che ha detto Adriano la portiamo a termine, sì. Io lancio la mia iniziativa, la mia proposta, poi chiaramente dobbiamo essere tutti d'accordo, perché ripeto, c'è lavoro un po' di tutti, chi ha trovato parole nuove, chi ha dato lo spunto per poter inserire quello, chi ha cercato di dare il sostegno per fare così, facciamo quella, quindi non è giusto che l'iniziativa sia solo mia, per carità, è un'iniziativa generale di tutti, dove io ho nome e cognome di chi ha partecipato e di chi ha fondato questo chiamiamolo gioco, ma che può essere una cosa molto molto divertente per noi CB, e poi c'è anche divertente per chi lo legge, perché sono veramente delle grandi stronzate dette in radio che alla fin fine fanno un po' di spettacolo, un po' di gioco, ecco, niente di particolare, non c'è offesa per nessuno, perché molte frasi le abbiamo anche inventate noi, però il 90% delle cose che sono scritte sono realtà perché è dimostrabile al 100%, ci siamo tutti, anche se stasera non ci manca qualcuno di quelli che è stato il sostenitore del gioco, però dico che la partecipazione è un po' in generale, ma non solo dei cibi di Sassari, anche dei cibi di Alghero, di qualcuno di Porto Torres e così via. E ci avrei anche subito un'idea veloce veloce per l'URL del sito, lo smith.it. Eccola! Lo smith.it, perché c'è anche lo Smith, capito? No, Smith, ma c'è lo Smith, quindi può essere anche lui, di questa una bella idea, lo smith.it, punto it, non punto it, perfetto, va bene, sì, per me, ripeto, io non so chi ci fosse all'ascolto, chi ci sia all'ascolto, chi è d'accordo o no, però per me è una bella cosa, l'abbiamo iniziata, è una cosa che è già da qualche tempo nel cassetto, perché l'iniziativa era andata un po' così a mancare, il periodo, me ne assumo tutte le mie responsabilità, da parte mia non era delle migliori, però si può rivedere un po' la situazione e cercare di mettere su questa cosa che fa veramente Anto, scendere le lacrime, guarda, io sono convintissimo al 100% che se noi andiamo col manoscritto in mano e lo presentiamo al sindaco di Proghe, a noi ce lo passa la giunta alla grande, a chi è il più bucarotto di noi. A chi presenta, non lo nominate, che non lo voglio manco sentire, è quello. Vabbè, lì ci sarebbe da scrivere un libro, Natale, non basterebbe un giornalino, ma noi l'MRM andiamo lì senza toccare i bicchetti, baromi Anto, lascia i bicchetti e cammina dritto. Portare in una legatoria e farlo veramente musica tipo giornalino, come avevamo un tempo natalizio, ti ricordi quei giornalini che facevamo quando eravamo lì alla sezione di Porto Torres, tipo deve uscire una cosa del genere, che lo usciva settimanalmente, però noi possiamo fare anche un mensile ogni tre mesi, cercare insomma di riassumere un po' tutto ciò che è successo, che si è detto, che si è fatto, e far nascere questo giornalino dello smitti.it. Anche all'Ari lo facevano, riportava la sezione di Porto Torres, il giornalino, te lo ricordo. Quello ti sto dicendo, quello quando eravamo iscritti c'è scritto anche tu, io, tu Marco, tutti un po' quelli che oggi sono rematori, ma comunque sono rimasti anche iscritti, che anche come SWL. Facevano questo giornalino appunto dell'Ari, della sezione Ari di Porto Torres, dove si riassumeva un po' in piccole stronzate, in cose serie, ciò che si faceva durante l'attività radio. Ecco, quella era un'attività materiale, questa è un'attività radiantistica, obistica un po' per tutti, che però può avere un significato a titolo di gioco, ma comunque per me è molto interessante. Era un'iniziativa che avevamo preso un po' tutti noi, e quindi io sono disposto a portarla anche a termine, giusto per farci una risata. Poi mettiamo nella copertina, mettiamo il falco, anzi mettiamo lo sparviero sopra che si sta mangiando il falchetto. Beh, è una cosa carina. Più la pace c'è per te, lo sparviero o il falchetto? E poi sotto Natalina pure il piparo. Beh, quando mai lui non dice la cavolata quotidiana? Scrivi? Stavo cercando di mettere in scala, perché sparviero, falchetto e natalino, poi ci sono io che non ho comment, minimo fatti con la sabbia grossa. No, poi della copertina comunque si può vedere, l'importante è completare tutto il resto. La copertina può essere anche una cosa che si può scegliere tutti assieme. Non è detto che debba essere nel falchetto, nello sparviero, né Natalino, né Adriano. Un qualcosa, anche una bella radio, un simbolo, un qualcosa spiritoso anche. Una radio a capaterra, un come ti dirigia? Come ti dirigia? Io da Bassone, Natalino. Guardi un copato, coppa, con un microfono di tavola. Natali, vieni la famosa retta del letto con la corrattura. Aspira. Un microfono di tavola, ma ci ho comparato. Non da tavola, di tavola. Segna, segna. Io c'ho un microfono di tavola, io tu vado a poca di dare. Segna, segna. Io avessi tu Maurizio, anche il nome c'è. Comunque il microfono di tavola. C'è davvero, esiste davvero, ragazzi, perché l'ho visto, c'era Giulio Lollaro ed è sagoma a tarne più tre spiccicato, io l'ho messo il mio tarne più tre davanti ed è spiccicato, sono un lume di ferro, chi se ne dà un avvio, col circuito tutto fatto, ma bello, ragazzi, bello veramente. Beh, quella è una cosa artigiana, è bello sì, anche da vedere. Me la stava raccontando una volta, qualche tempo fa, che aveva fatto il microfono di tavola, che l'aveva fatto lui, minchia. E ha fatto bene, non parla più tre, presente ce l'hai, solo che quello è di legno. E funziona, che poi c'è un circuito, funziona, ed è uguale al tunnel più 3, ce l'ho anch'io il tunnel più 3 qua, ed è uguale al tunnel più 3 quel microfono, l'ha fatto lui, veramente, non sto scherzando, funzionante, ecco, il circuito è tutto. Adria, bellissimo, guarda, io apprezzo le cose belle, veramente. Anche da collezione, cose spiritose, ma questo è veramente un capolavoro. È un capolavoro, anche perché parliamo di una persona che è veramente un grande, grande, grande, grande, sottolineo grande artigiano. Molto bello. Molto bello. Fa dei bellissimi lavori, delle bellissime cose, veramente non lo dico perché ha fatto delle piccolezze, ma delle grandi cose anche a me, come questo nuovo ripiano lavoro che Natalino ha visto, organizzato da lui, disegnato da lui, proprio la parete con solo due piedi in testata, di quelli che non ne ho mai visto, io ho 50 anni, non ho mai visto questi piedi così che si piegano con la sicura, ma una cosa allucinante, veramente bella. Natalino l'ha visto, ma lo dico perché ho visto il microfono e perché veramente è una cosa incredibile, veramente bello. Con la sede Andrea Ferri, l'IPTT uguale, qua Natalino l'ha visto, preciso, identico, di legno, un tram più tre di legno. Sì, ne stavamo parlando un pomeriggio, me lo stava descrivendo, per essere, non so, una figata troppo bella, come esistono tastiere e monitor di legno, una tastiera in mogano, circa 2000 euro, e perché non devono esistere i microfoni? Deve essere troppo bello. Non ho avuto il piacere di vederlo, però me l'ha descritto. Ma io sono rimasto stupefatto, veramente. Una cosa bellissima. Una cosa bellissima. Uguale, preciso, identico, un tame più tre fatto di legno. Preciso perché l'ho messo avanti ed è uguale, preciso, identico. Veramente bravo, Maestro Giulio è veramente bravo, ha una mano d'oro. Pensa tu, quello che ha visto Natalino in fabbricazione, che oggi è finito qua, dille che cos'erano quelle cose, che cosa ne è uscito Natalino, finito. Ciao Mira, ciao, è lui cazzo, ha fatto quella base là. Non ho mai visto io cose fatte così, e non si vede nulla, soprattutto. L'ho visto dentro io, senza essere né verniciato né niente. Claudio. Ehi. Ma che tipo di legno ha usato per fare il microfono? Lì mica è l'ultimo scemo venuto. È un artigiano con le spalle. C'è i suoi mesetti di esperienza sulle spalle. Quanto mesetti, e se non si lo vede disegnenti, ma so quanto è bravo in disegno tecnico. Io ho visto disegni che ha fatto lui, guarda. Artigiano sul lavoro, è chiaro, la progettazione deve farsi a lui, mica è lui che ti propone, anche a me, ma lo metti a voi. Guarda, io ti do solo la misura, mi serve 2,50 m x 90 m. Poi fai quello che ti piace, ma a me sì, mi ha portato questa cosa che sono rimasto allucinante, veramente, ma ripeti di ciò, tu fai per me, e questo è praticamente un tavolo pieghevole che è attaccato a tascelli da 14 al muro con la stecca, poi le cerniere sotto si tira e ci sono i piedi da 3 pollici in ferro. Una cosa allucinante, ma poi come è fatto il rivestimento, tutta la bordatura, tu si trovi una giuntura, ma ancora sotto si vede la giuntura. Non lo so che cosa ha usato per il microfono, forse Natalino, so cos'è il faggio, olivo, cos'è il legno che ha usato per il microfono? No, non lo so, io i legni non li conosco, la verità. Non li conosco, io ho visto il microfono, ma tutti sono danni più tecnici, ma si perché praticamente quel tipo di legno ho visto sì che è molto molto robusto, però non so che legno è, ma se domani entra Giulio glielo chiediamo a vedere che tipo di legno è quello che ha usato per il coso, per fare quel microfono. Ci sarà l'occasione per chiederlo. No, sono curioso a vedere che tipo di legno ha usato per fare il microfono, tutto qua. Ero proprio curioso, la curiosità mia. Infatti, quando io lo dicevo scherzando, il microfono di tavola, di Dava. La famiglia di Papilla che ha fatto almeno un campone di Dava. Beh, se c'ha la sua esperienza, penso che sa tutto del suo campo, è tutto di più. A tal riguardo che fino all'altro giorno non ho sentito io uno che è potuto dire che c'è un blocco nel campo. C'è, come se c'è. Lui ha il microfono di tavolo. E comunque c'è un grande lavoro, Odea. Io l'ho visto proprio come è scavato, come è fatto. Cioè è uguale, è preciso, identico ad un microfono di ferro normale. Solo che è fatto di tavola, il problema è quello. Ma io l'ho visto smontato, perché ne ha anche uno smontato. Ha fatto l'intacco preciso lì su di rubarne. L'intacco gli ultimi, tu piglia sempre più vagamente. Qua, boh. Quindi è proprio una scultura, è un pezzo di legno intero, proprio lavorato a mano, come si fa proprio una scultura, una statuetta in legno, capito? Che prendi il pezzo e lo lavori piano piano con lo scalpellino, non fai del genere, perché più che così non può essere, perché infatti, come dice Natalino, dalla parte di sotto c'è il taglio proprio giusto per inserire il circuito di preamplificazione con, attento Adriano, col passaggio del filo che arriva sino a dove c'è la capsula, quindi la stessa sede dove poi entra la capsula e ci va la retina proprio del tunnel più 3, preciso, identico. La retina della nata, vediamo cosa l'ha giovata io. Lui gli ha messo quella sua proprio originale, dove c'è scritto Turner. No, io l'ho fatta, e se ti dico cosa l'ho fatta, è una retina così, che a me mi hanno dato l'idea, no? Beh, l'ho fatta col filtro della caffettiera. Esatto, si può fare anche con quella, sì, fatta a misura, perché la circonferenza è quella lì. Comunque sono dei capolavori, da questa parte di scherzi, sono dei capolavori, veramente, guarda, da ammirare, una persona che riesce a fare determinati lavori, sono solo da ammirare, io sono pienamente d'accordo, perché sono opere d'arte. E io lo credo, ma io ho visto tantissime cose che ha fatto quella persona, e ti posso dire che è un'opera che vuole fare veramente. Proprio un grande, per esempio il basamento che c'ha Claudio, io 11 metri chi si apre me, non avevo una vice così. Infatti è solo opera d'arte, vabbè, è normale, guarda che progettare una cosa non è facile come sembra, o no, lo confermi già? Ah sì, sono d'accordo, infatti io ho detto mi serve così. Cioè nel senso che io praticamente gli ho dato solo la misura, ma il tanto lo vuoi manno. Beh, sto facendo un basamento, lo faccio in grazia di Dio, e che camminino le sedie, quindi scorrevoli con le ruote bene senza darmi nessun fastidio. La cassettiera ce l'ho e va fuori, allora la salva a me. Mi ha fatto un capolavoro, ma qua te l'ho già detto, ci vediamo, tu vieni qui e ti faccio vedere il tutto e mi dirai, hai ragione, ma come è progettato, come è fatto, come l'ha inserito poi a muro, capito? Con questo tipo di cerniera, quindi un domani io voglio smontare le radio da qua su, non faccio altro che togliere tutte le radio, abbassare il tavolo, che è proprio a misura, proprio di terra, non è che rimane, si abbassa proprio, tutto si piega in piedi e si abbassa. Rimane attaccato al muro con le cerniere, con questa trave di legno, sempre dello spesso più grossa del tavolo, con delle cerniere matronantiche con dei tasselli da 14, una cosa allucinante. Ma prima di montare la radio, a piedi abbassati, io mi sono messo sopra, peso 88 kg, 87 kg peso adesso, ci ho parato sopra ma non si muove, poi con i piedi regolabili, lo metti a livello dai piedi, attento, quindi progettato alla perfezione. Bello, un bel capolavoro, veramente una cosa da vedere e da ammirare. Con voi, trovetto, una sera che ti sento presto, esci al lavoro, passo a prenderti e vieni qua, ti faccio vedere qua. veramente fatta ad hoc, grandissima, enorme, quindi puoi cambiarla, non ti va bene a questa parete. Lo smonti, lo pigi e lo pone all'altra parete, sempre trasellato fa, ma abbiamo deciso di metterlo qua perché è il lato che mi piace di più, l'altra parte c'è tutta la parte dei computer. Qua è bello, bello da vedere, ma prescindere da queste cose non è perché l'ha fatto a me, ma ne fa molte, molte, molte. È molto bravo, molto bravo. Ho visto dei grandi lavori, cucine, addirittura quella che ci ha fatto lui, una cosa lunga 6 metri, armadi a 6-7 ante, una cosa spaventosa da vedere, fatta da lui. Quindi, come diceva Adriano, c'ha qualche mese di esperienza, 50 anni che fa zighisci, quindi se lo può permettere di avere questa bravura e questa iniziativa ancora di fare, quindi una persona da ammirare veramente. Ok, va bene, cambiamo capitolo. Vabbè, quando capita già ci metteremo d'accordo, così si sale e si guarda l'opera d'arte, tutto qua, va bene. Ok, dai, Natalia, riprendi tu. E se no l'infrastruttura che fa? Fa i mobili, lui costruisce mobili proprio, da zero. E dopo dei soldi si vede i navali qua, dopo dopo. Me lo posso immaginare, certa esperienza, poi c'è anche la passione in mezzo, e vuol dire molto. Cava cava. Ok, dai, riprendi qua, lo puoi girare bene per la rotella. E si conferma, va bene. È così. Comunque, ognuno suo, dice quella, impara l'arte e metterla da parte. Tu cavali rottite, ma qua sì, tu vai a una giornata e si intende la musica, tu rottite va. E la sento anche la musica? Si sente, è un po' sensibile, qua, si sente la musica, anche noi la sentiamo. Dice, si chiude la porta, l'altra porta ce n'è due, una è serrata, una no, ma riprendi Adriano. Si sente, infatti ho detto, ma io purtroppo non posso usare il microfono amplificato perché c'è un concerto qui vicino, quindi si sentirebbe un casino nero. E infatti è per quello che non sto modulando, ascolto e basta, è un casino niente. E lì si sente. Ma te non si sente niente, Adria, sei di lusso? Infatti non sto modulando, e poi non devi modulare, non ho compreso. Non si sente niente, sei tranquillo. Non so, ma c'è un concerto qua vicino, e a stare con il microfono da palmo in mano, mi rompo le scatole, perché non che parlo solo, faccio altre cose, oltre a prendere il microfono in mano, eccetera, eccetera. Non è esattamente la cosa comune, no, un microfono da palmo. No, io ho chiuso anche l'altra, adesso non si sente più niente. Ok. Perché c'era della musica, hanno sollevato il volume, poi c'è quell'ultima generazione di TV, quelli a schermo piatto adesso, come sollevi il volume, con tutti i gasci che vanno, i laterali, i centrali, fra poco esce il buro rubinetto e leva i televisori. Non farà lì alla mano, la famiglia per la sale, Si conferma. Chiudiamo tutto, con questo periodo che è una necessità nel gruppo di Lego, dove io uscio. Ma io infatti adesso, lunedì, devo scendere a lì da cosa, non come si chiama, la media vuota. Guardo se c'è quelli a schermo piatto, non molto grandi, ma almeno insomma, da parete, sull'altro lato. Allora faccio l'impianto TV questa stanza, perché non ce n'è. E poi iniziano partite, le cose, anche quando c'è il radio così al computer, adesso lunedì mi attaccano la linea DSL. Io ho fatto lo spostamento, ma purtroppo dovevano passare almeno 25 giorni. Comunque la linea è già pronta, sono già venuti. Mi dovrebbero collegare lunedì. Così abbiamo anche il computer attivo. E finisco tutto qua. Finiamo tutto. Pian pianino. Ma ci è avvisato che te lo trovo. Ci è avvisato, ma... a portafoglio. E a schiena. La roba che c'era, allucinante. Immagina che ho portato due camion interi. Uno è venuto a Portobello a prendersi tutti i mobili che c'erano prima qua, perché erano tutti da dare, perché erano tutti vecchi. In più quelli che c'avevo giù, una parte, e gli altri tutti nuovi. Sant'Antonio mio, meglio non ci penso. Che sono pesanti, a parte la tasca, ma anche fisicamente ti ammazza, la verità si dica. Ma adesso speriamo tutto bene, che la questione rimanga fermata lì in quel posto, e niente, e che vada tutto gappa gappa, bene mesa. Detto questo, vi lascio anche a Natalina, avanti Natalina. Ma perché non lancia a me, non mi lasci fumare la sigaretta in pace, Dio, buono? Beh, la sigaretta si può fumare parlando, così è claro. Sì, si può fare tutto a una mano. Infatti adesso ho il microfono, l'ho messo là, ho un dito nel naso e uno mi sta toccando la ceta. Si può fare tutto, anche senza mani. Metti le boxe, uno ti gratti l'orecchio, l'altro fumi la sigaretta, tocchi il pistolino al cane, puoi fare tutto. Anche volevo toccare un'altra cosa, ma c'è il pittine, so che tu mi ha interrotto. Sono le due cavano tre gocce, se vorrei fare la bravi, rilassarsi. Così è. Luglio, ma come domani è domenica? E domani è domenica a parte il padre, domani devo lavorare. Domani mi tocca il pomeriggio. Infatti la mattina esco, però si rientra presto. Mezzogiorno e mezza, l'una, si pranza, e via. Poi si va a Trabaccos. E poi allora diciamo già ci sentiamo. Anche non ho mai dovuto essere a casa. Per carità, ho voglia di proprio di non far nulla. Di non fare niente. E tu ma qui a Sassari sei al lavoro o stai viaggiando da qualche parte? No, claro, non sono qua a Sassari. Io lavoro a Sassari. Io sempre ancora sino a luglio, sino a dopo le votazioni, ancora sto viaggiando, poi da luglio dovrei essere qua, speriamo che non si trovi anche al gol dopo lo liscio e non faccia quello che deve fare, ma però adesso il mio funzionario mi porta a Sassari perché mi ha funta una velina a Canica nuovo. Un nuovo impianto che hanno fatto, c'è bisogno di una persona e quindi dovrei avere il cambio assicurato. Vediamo, quando vengo vi grido. Infatti, è così, quando ce l'hai gli puoi dire sì, è vero, allora posso confermare che è vero, ma finché non si ha certe cose non bisogna mai farsi diciamo illusione, ecco, tutto qua. Lui chi è? Chi mi ha chiamato? Così è Anto. No, Lucio, oh mamma, non ci sto manco pensando perché i discorsi mi hanno fatto tanti in tutti questi anni e sono sempre in chimica, quindi ti ripeto, ribadisco che quando ovvero ci credo c'è questa proposta, vediamo se riusciamo a concludere quest'anno, mi hanno detto a luglio, quindi aspettiamo la situation. Per il momento continuiamo a viaggiare a consuma uso, a consuma gomme, a consuma tutto. Piano piano, col tempo penso che tutto si metta a posto. Va bene, vedo. Riprendi la tariffa, più parte della sua sigaretta. Io riprendo per salutarvi tutti là che mi stanno chiedendo le pappaelle. Ci sentiamo alle prossime nella Valletta. Già, ascolta, mi stai rimando un po' lì, ma nella Valletta non ho voglia, la verità, sono stanco. Sono stanco, se ne sento qua. Approfitto anch'io allora la salita a salutarti, anche io mi sa che me ne vuoi nonna. E niente, dai, saluto a te, buon 144, la golfa e la salita, buon 144 anche a Claudio. E tutte le migliori, dai, io chiudo le trasmissioni per oggi, Capparoci, aspetto i saluti finali. E niente, dai. Sì, Cappa. Sì, beh, è giunta l'ora, sono già alle 11:15. Abbiamo fatto anche troppo oggi, dai, siamo un po' divertiti, abbiamo fatto un po' di tutto. Perfetto. Ciao Natalino, ciao Antonio, piacere avervi riascoltato, grazie della compagnia di tutto. Ciao anche Adriano, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, anche per me QRT. Buonanotte a tutti, a domani, se coincide. Ciao Anton. Ciao Natà e ciao Adriano. Ciao ciao a tutti, buonanotte, buonanotte per domani. Ciao. Ciao ciao Adriano, ciao Claudio e ciao Natalino. Ciao a tutti, quello è per me. Ciao ciao ciao.